se bella come un ciuri. Serena di stumari, la stida che mi dà una forza quando faccio scuro, un angelo senza ali che non può di camminare, pugliata con monciuri, profumi gelsomino, tasti sulla bruciata vite amara come sale, ma sti sulla incantata io non voglio rinunciare. Hai brividi d'amore, regina di stumari, ma sicco cuore quando penso fritto di innaro, se muore a terra non ci resta niente di campare. Si bella come un ciuri, te degni un tasti mani, tu fammi vivirare come un povero animale che cerco so patroni. Chi sciamo di inescia arriva ad usciatuni, mi sento accalorato, non avevo ben tu sole. Chi sciamo di inescia con modio d'osa puri, dammi una mano amore, non me lasciare solo. Se bella come un ciuri, serena di stumari, una stida che mi dà una forza quando faccio scuro, un angelo senza ali che non può di camminare, se bella come un ciuri, te degni un tasti mani, tu fammi vivirare come un povero animale cerco sopra giuni. Chi sciamo di inescia arriva ad usciatuni, mi sento accalorato, non lava ben tu sole. Chi sciamo di inescia un moglio d'osa puri, dammi una mano amore, non me lasciare solo. Se bella come un ciuri, regina di stumari, che sciauro di inescia.